basta respirare l'aria fresca del mattino, vedere un nuovo giorno nascere e sentirmi un po' bambino. Mi basta guardare il volo di un gabbiano, i disegni che fa in cielo come i disegni del destino. Nella mente vago sulle cime, esplorando altri mondi, pullulare come un lupo alla magia di una luna piena. Mi piace immergermi nella dolcezza di un sorriso, condividere le mie scoperte, costruire una vita serena. Non siamo soli, siamo solo lontani dalle anime che ci sfiorano da propositi più sani. Non siamo padroni, sempre troppo distanti dalla gentilezza, dalla natura e i suoi suoni. Mi basta stordirmi con la forza del vento, perdermi nella pioggia e gioire di quello che sento. Mi basta guardare la magica danza dei delfini per piangere e sorridere, maledire i loro assassini. Non siamo soli su questa terra, non c'è bisogno di capi, tanto meno della guerra. Non siamo padroni, siamo solo di passaggio, siamo qui per la gioia, ma ci vuole più coraggio. Mi sento felice anche come punto nell'universo, non ho bisogno di tanto e non vorrei essere diverso. Vorrei essere parte di un'orchestra che suona, immergermi in quella musica e trovare una vita più buona. Siamo soli, siamo solo lontani dalle anime che ci sfiorano da propositi più sani. Non siamo padroni, sempre troppo distanti dalla gentilezza, dalla natura e i suoi suoni.